mia meta, tu sei brama infinita. Guardo al tuo corso vicino, tutto il mondo è un infarto, mio tesoro sta mutato. Il cuore e ti canta d'amor. Oh!